Di Alba de Céspedes nessuno torna indietro. Mondadori 1938, scaricato gratuitamente da internet in formato PDF. Capitolo primo. Sulla grande casa grigia il portone si apriva come una gola oscura. Una vetrata che divideva l'androne fermava l'ultima luce del crepuscolo e oltre questa si vedevano passare per attimi imprecise forme nere. Fuori sulla piazza la gente passeggiava adagio per trattenersi nell'ora e nella stagione. Era giorno ancora, e però già le selci si lividivano, sembravano farsi gelate. Nel gomito di strada in salita, ove stava la grande casa, volava bassa una rondine, un volo fiacco, pigro. Dietro la rondine svolazzava una nottola, giravano assieme, sfioravano i balconcini. Spenti ancora tutti i lumi della città, soltanto sulla grande casa grigia, quattro finestre in fila, a pian terreno, trasparivano di luce calda. La luce era incerta, come di candela. Di là trapelava un vocio monotono, docile. Erano, si capiva, voci giovani. Alle ultime parole della suora, che aveva letto la preghiera della sera, il coro svogliato delle ragazze rispose: "Così sia". Poi cadde un silenzio assoluto. Ma venato d'impazienza, qualcuna soltanto fissava le candele dell'altare che le mettevano barbagli rossastri negli occhi, le altre guardavano il fondo della cappella spiando il segnale. Neppure parlavano tra loro, ansiose di uscire. Uscirono infatti poco dopo a due, formando una colonna compatta. Traversarono così l'ampio vestibolo, quasi buio, ma presso la scala, come a un altro misterioso segnale, gettarono via i veli dalla testa e si sciolsero. Erano tutte ragazze già grandi, vestite disparatamente e però, forse per la poca luce, formavano una macchia uniforme. Il silenzio si mutò in un fitto cicalare, il ridere si udiva farsi di sommesso, via via più franco e ardito. Parlavano di professori, di università, altre si confidavano con occhi ghiotti, ma le voci si placarono quando una suora giunse presso di loro e, battendo leggermente le mani, disse: "Basta, figliole, basta, salite nelle vostre camere". Era la sola suora alla quale le ragazze non osavano replicare, non per timore, ma piuttosto per simpatia. Una simpatia non espressa, istintiva e segreta. Non era una suora come le altre, alta e ancor giovane, aveva voce musicale, mani bianchissime, non sembrava Suor Lorenza, una vera suora. Quando ella parlava, le ragazze restavano a pensare e intanto, senza volerlo, ubbidivano. Anche stavolta, infatti, tacquero e presero a salire la scala. Soltanto Vinca, la spagnola, chiese come ogni sera: "Posso salire a telefonare, Suor Lorenza?" Qualcuna delle compagne più prossime di scatto si volse per udire che accadeva. Anzi, Valentina tirò Vinca per la manica così forte da farla traballare. La suora rispondeva: "È tardi questa sera, Vinca. Potrei chiamare domani mattina. Certo, la tua non è cosa urgente. Ma invece, suora, no, no, non è urgente. Telefonerai domattina. Adesso va a dormire o a studiare. Buonanotte." Intorno alla spagnola le compagne ridacchiavano per la sconfitta. "È andata male, è andata male", mormoravano. E Vinca, avvezza ad agire sempre a dispetto delle suore, "Lo fa per rabbia", replicava, "perché lei sta chiusa qui dentro e io domattina esco e invece di andare all'università vado a spasso con lui. Non fa niente, adesso ho sonno, vado a letto." "Salgo con te. Anche io sono stanca", le disse Augusta. Era la più anziana delle ragazze. Non si capiva come ancora fosse tra le studentesse del Grimaldi. Dimostrava oltre 30 anni. Era alta, ma grassa. I capelli che aveva, neri e ricciuti, erano tagliati a zazzera. Sarda era, un tipo singolare. Dopo aver salutate le suore, prese Vinca per il braccio e si avviarono. Intanto una bionda pienotta e bassina passava lesta tra le ragazze, raggiungeva le amiche e diceva piano: "L'appuntamento stasera è al 63". Le ragazze annuivano con guardinghi fugaci, cenni del capo, come in un complotto. Poi si perdevano nell'ombra dei lunghi corridoi e scomparivano nelle stanze. Nella camera della ragazza calabrese c'era odore di libri e di fichi secchi ripieni. Ne riceveva grandi cesti da casa e li metteva sull'armadio. Le compagne, se ne avevano voglia, montavano sulla sedia e pescavano nel cesto anche senza essere invitate. Silvia, sdraiata sul suo letto, sembrava dormire. Da quando era al Grimaldi vestiva sempre a lutto, più di 3 anni ormai, quei lutti pesanti della bassa Italia. Aveva opache trecce nere avvolte intorno alla testa. La pelle del viso, olivastra, gli occhi scuri e lievemente strabici, sotto le palpebre grevi e lucide, quasi fossero unte. Il lutto vestiva anche la camera, per quegli indumenti neri appesi alle pareti o perché, avendo la finestra in angolo, di giorno risultava meno illuminata delle altre. Nella camera c'era odore grasso e selvaggio. Sembrava che i capelli di Silvia dovessero anch'essi odorare così. In questa camera piccola e raccolta, le ragazze si riunivano spesso dopo la cena a studiare. Il più delle volte avrebbero avuto voglia di andare a letto a dormire. Vincersi costava uno sforzo. L'unica ad essere sveglia sempre era Xenia. Le guardava, diceva andiamo allora, e alcune non trovavano il coraggio di rifiutarsi. Poca luce dalla lampada bassa calava sopra la testa di Valentina, che leggeva rattrappita sulla sedia per il freddo. S'era alla metà di novembre, ma l'inverno si annunciava rigido. La ragazza, alzando lo sguardo dal libro, si rivolse verso il letto e chiese: Dormi, Silvia? No, penso. Dormivi? No, pensavo. Pensavo che domani al mio paese è festa. Stasera certo la mamma avrà preparato la pizza con l'uva secca. Domani nel camino si brucerà un ceppo più grande e i cugini verranno a mangiare in casa nostra. Vorresti trovarti là? No. Poi soggiunse incerta, cioè, non so. Domani sì, per il ceppo e per quei dolci che si sgranocchiano accanto al focolare, però credo che se dovessi tornare a casa d'improvviso non toccherei cibo. E mi roderei pensando a voi altri e a ciò che devo fare. Non c'è tempo da perdere. Hai ragione, fece Xenia. Certe notti mi prende come una smania. La smania di far presto a finire per uscire di qui. E non chiudo occhio e mi tormento pensando che mentre io sto ingabbiata in questa clausura di monache, fuori la vita scorre. Forse buone occasioni si presentano, chissà. La fortuna. E passano. E io non ci sono. Nella vita bisogna buttarsi a capofitto, prenderla per il collo e io aspetto di cogliere il mio momento perché a Veroli non ci ritorno, anzi. Fu interrotta da Anna che entrava dicendo: Avete visto, ragazze, che luna c'è stasera? Si accostò alla finestra e l'aprì. S'affacciò un momento esclamando: Che notte luminosa! Poi si volse alle altre e fece, cambiando tono: Augusta è andata a dormire. Vinca è sconfitta perché non ha potuto telefonare. Non so quanto darei per sapere che cosa dice a Luis tutte le sere. Che vuoi che gli dica? Replicò Xenia. Le stesse cose che noi diciamo in italiano. Che noi non diciamo a nessuno, piuttosto, precisò Valentina. Quelle che io studio su Abelardo ed Eloisa. Non viene neppure Milly? E la nuova del 28? Non so nulla, disse Valentina. Le ho avvertite, ma poi. Milly non viene, fece Xenia, che aveva ripreso a studiare. È stanca. Va a letto, lei dice. E poi legge fino a tardi. Si rovina la salute con i libri. La nuova ha detto che verrà, ma forse farà come ieri sera. Io non capisco che sta a fare qui, Silvia osservò dal letto. Non studia, hai visto? E qui si viene per studiare. In camera non ha neppure un libro. Vuole studiare la storia dell'arte, dice. Boh, vedremo. Ma mi sembra ignorantella, sa il francese, l'inglese, insomma, l'istruzione di quelli, sapete, quelli che non sanno niente. E tuttavia non è una ragazza comune, a me dà quasi fastidio perché in fondo ci domina. Oh, non è vero. È vero, sì. È l'unica alla quale appena arrivata abbiamo offerto senza esitare di venire con noi. Quando si mise a tavola in refettorio facemmo silenzio tutte guardandola, quasi imbarazzate. Perché era tutta dipinta. No, anche Vinca si dipinge appena fuori dal portone. Tacemmo perché sentimmo che era lei. Poi tu, Xenia, subito le dicesti: resta con noi di lettere, e cominciasti a dire che quelle di medicina puzzano di acido fenico e che quelle di musica sono buone tutt'al più per cantare in cappella la domenica. Beh, non è vero, forse? Sì, ma significava volerla per forza con noi. Ne sei pentita? No, ma allora basta. Spegniamo la luce invece, godiamoci la luna. Prima che le altre approvassero, Xenia girò l'interruttore. Dal vano della finestra, chiuso per metà da un telaio, si rovesciò sul pavimento della stanza un lembo bianco di luna. Valentina, che sedeva al tavolo, ne fu investita e si alzò di colpo, schivando la luce. Tutte ebbero un «Oh!» di meraviglia e poi rimasero assorte. Si udì la voce di Silvia: «Con questa luna al paese certo saranno usciti a cantare!» Vedevano soltanto un rettangolo esiguo di cielo, su, su, oltre le cime brune e gonfie degli alberi della vicina villa. Le stelle stavano immobili, stelle da firmamento di teatro. «C'è gente che passeggia nella villa a quest'ora», disse Valentina piano. «Già, gente libera», soggiunse piano Xenia. E di nuovo tacquero, immerse nella pace lunare. Erano al buio quando Emanuela entrò. A tutta prima non riconobbe le ragazze, anzi credette di avere sbagliato camera. Disse: «Oh, scusate!» e fece per andarsene, ma Xenia la richiamò. «Entra, entra, siamo proprio noi! Si contemplava la luna! Puoi accendere se vuoi.» «No, no!» Richiusa la porta, Emanuela restò in piedi senza parlare. Guardava le ragazze a una nella penombra. Lei, passando per i corridoi e vedendoli tutti chiarità, aveva provato il desiderio di spalancare le finestre, affacciarsi. Ma i finestroni erano sprangati e chiusi con lucchetti, e poi pensava che se le nuove amiche l'avessero vista l'avrebbero derisa di sicuro. Non aveva mai pensato che quelle ragazze che si nutrivano di libri potessero accorgersi di ciò che accadeva nel cielo. Invece, arrivando su, le trova al buio in estasi. Una voce partì dal letto: «Che sei venuta a fare?» Emanuela rimase un attimo perplessa, non sapendo se quelle parole erano dirette a lei, ma ne ebbe la certezza dal silenzio delle altre. Risentita, rispose: «È Xenia che mi ha invitata. E Valentina mi ha detto che dovevo salire a 63, me ne rivado subito.» «Sciocca! Volevo dire che sei venuta a fare in collegio.» «E tu?» «Ma io studio.» «Ma tu, che puoi vivere senza far niente, invece di venire qui a mangiare zuppa di cavoli, perché non sei rimasta a casa tua?» Emanuela indugiò a rispondere. Poi, come scusandosi, disse: «Non posso.» Xenia incalzò: «Sei orfana?» «No», disse. Sentì che tutte stavano nell'attesa di altre spiegazioni, onde soggiunse: «I miei sono in viaggio in America.» «In America? Un viaggio da gran signori», osservò Xenia. «Adesso comincio a capire», disse Silvia. «In America», ripeté Valentina. Intanto guardavano la tenda della finestra gonfiarsi all'alito della sera. Al grido si scossero tutte e Xenia accese la luce, chiuse la finestra e la voce passava nei corridoi, fatta monotona dall'abitudine. «Luce, luce!» E la U si prolungava smisuratamente, come il lamento delle sirene di una fabbrica al cessare del lavoro. Anna spostava le sedie, accostandole al tavolino. Valentina aveva preso da uno scaffale che conteneva un po' di tutto un lume a petrolio e l'accendeva. «Che fai?» le chiese Manuela. «Non hai inteso?» ha gridato. «Luce!» «E allora?» «Già, tu sei al primo piano, come Milly. Pagate di più, ma vi lasciano la corrente. Potete leggere tutta la notte se volete, ma noi alle 10, se vogliamo vederci, dobbiamo arrangiarci così. Tra un momento questo piano sarà buio.» «E i corridoi?» «Anche.» «E perché?» «Perché la luce costa caro. Noi siamo povere e le suore avare.» «Spilorce!» precisò Xenia. Emanuela si preoccupava. E io come farò per scendere? Come noi, a tentoni. Oppure ti presteremo una candela, le disse Xenia. Noi adesso ci mettiamo a studiare. Prendi un libro anche tu, te lo scelgo io. Un libro adatto per te. Ecco, tieni, questo andrà bene. Sono i poeti del Dolce Stil Novo, li conosci? Mettiti a sedere, fa finta di studiare, se no ti manderà in camera tua. Chi? Non vi fu bisogno di risposta. La porta si spalancò come per una ventata. Una piccola suora apparve nel vano, magra, pallida, con lenti spesse che davano sguardi smisurati ai suoi occhi senza ciglia. Zitta, rimase a guardare le ragazze che cominciavano a sghignazzare. Suor Prudenzina, Suor Prudenzina! Ella osservava attentamente nella camera, cercando di scoprire qualche cosa di anormale, di colpevole, perfino sotto il letto indagava con lo sguardo, sempre restando immobile, la mano sulla maniglia. Emanuela ricordò quando, giorni prima, al suo ingresso in collegio, questa stessa suora le aveva detto con acre gioia: «Via quella roba dalla bocca!», accennando al rosso delle labbra. Sentiva ancora la piccola mano fredda sfiorarle il vestito, mentre la voce mormorava: «Seta!». Adesso Emanuela stava in piedi presso il letto di Silvia e la teneva per il braccio per darsi coraggio. Aveva paura di tutto là dentro. «Che fa lei quassù?» le chiese la suora. «Adesso qui tolgo la luce, scenda in camera sua!». E quella le avrebbe ubbidito se Xenia non si fosse opposta. «No, stasera Emanuela resta con noi, deve studiare. Vada, vada, Suor Prudenzina, custode della notte. Sa come la chiamiamo noi? La luce nel pugno!». Risero tutte e Xenia andò fino alla porta per inveirla quasi. «Spenga, vada a spengere, ma usciremo di qui un giorno. Stasera abbiamo il lume a petrolio e domani la candela, ma usciremo!». Silvia l'interruppe. «Taci, Xenia, stanotte siamo ricche, c'è la luna!». «Già, c'è la luna. Quella non la puoi spegnere, no?». «Non la può spegnere, Suor Prudenzina. Vada, vada a spegnerci anche la luna!», ridevano e seguitavano a schernire la suoretta. Ma le voci erano scherzose. Solo in quella di Xenia si sentiva il rancore. La suora continuò a guardarle duramente e quando tacquero: «Ragazzacce!», disse scherzando e se ne andò. Emanuela fissava Xenia stupita. «Sei pazza? Non sei mica qui in prigione? Perché hai fatto così?». «Perché è una strega! Appena arrivata, i soldi per la candela non li avevo, neppure quelli. Perché mi guardi così? Ti meravigli? Neppure quelli. E mai che lei me ne avesse offerto un mozzicone». Fuori si udì gridare ancora: «Luce!». La U fu più lunga del solito. Poi il buio si abbatté sulla camera finché il grasso chiarore del lume a petrolio non riverberò sul tavolo, sui libri aperti. Anna si volse a Xenia e le consigliò: «Calmati adesso, non ci pensare più. Tra pochi giorni tu hai finito, pensa a prepararti piuttosto». L'altra non rispose, sedette accanto alle amiche per studiare. Emanuela trovò il suo libro aperto a un sonetto di Guido Guinizelli e lo lesse una volta, due volte. Non aveva voglia di andare avanti, neppure di voltare pagina. «Chissà perché mi ha scelto questo libro», voleva dire forte. «Ho finito» e andarsene, ma non osava. Teneva gli occhi bassi per far credere che leggeva. Ripeteva tra sé l'ultimo verso e ogni tanto, guardando di sottecchi verso il letto dove il corpo di Silvia faceva una gran macchia nera. Ma la ragazza immobile, certo, oramai dormiva.